America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, sono tornato alla base dopo una piccola maratona. Vi ho raccontato ieri la conclusione del vertice della NATO. Prima c'è stato il vertice del G8. Abbiamo parlato di macrosistemi che si passano poi la staffetta fra loro, perché oggi c'è un importante vertice europeo. Il tema comune, l'euro, la stabilità dell'eurozona, la necessità di risolvere questa crisi, il rilancio della crescita, insomma tematiche che abbiamo esplorato più volte. Ecco, oggi vorrei fare un salto da questo macrosistema fatto da presidenti, da ministri, da grandi esperti, da ambasciatori, a un sistema micro, all'azienda, cioè come vive un'azienda in una situazione di crisi di questo genere? Come reagisce quando vede questi vertici che sembrano così lontani da quelle che poi sono le esigenze del giorno per giorno? Dunque, ho con me un rappresentante di queste aziende, Giulio Bonazzi, presidente amministratore delegato di Acquafile, di passaggio a New York, ed è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Bonazzi. Buongiorno. Qual è la sua prima reazione pensando da una parte ai grandi che si incontrano e dall'altra ai suoi problemi? Ma che i grandi dovrebbero mettersi d'accordo per fare qualcosa di concreto e smettere di parlare e prendere una decisione. Noi in Europa, se non decidiamo quello che vogliamo fare tra virgolette da grandi, è meglio che ci separiamo, ad esempio, come mia personale opinione. E secondo lei cosa dovremmo fare da grandi? Essere più uniti sul piano fiscale? Fare un passo in avanti sul piano politico? Ma è stato inutile fare la moneta senza fare l'unione politica. Avere una economia unita da una moneta che lega paesi diversi, che hanno passi diversi, velocità diverse, non permette agli stessi paesi di ribilanciarsi in caso di problemi, come sta succedendo in questo momento qua. Quindi o si fa l'Europa o è meglio disfare tutto. Acquafil, vi racconto un po' che cos'è Acquafil. È un'azienda che fa un fatturato di circa 500 milioni di euro, che ha avuto uno straordinario successo nel 2005, ne faceva 325, quindi nel giro di 6-7 anni ha quasi raddoppiato il suo volume di vendite. Ecco, è un'azienda che è riuscita a stabilire dei primati di nicchia. Beh, intanto è un'azienda super internazionale, perché è l'unica nel suo settore ad avere impianti produttivi nei tre continenti, in Europa, in America e in Asia. Poi soprattutto è riuscita ad essere straordinariamente innovativa, come sappiamo essere noi italiani, nel settore che mette insieme la produzione industriale con diciamo l'avanzamento ecologico. E uno dei punti di forza di questa azienda è l'aver creato un riciclaggio, un filo per la moquette che è un filo riciclato, è un riciclaggio delle vecchie moquette, e dunque potete immaginare il risparmio in termini energetici, in termini di produzione, in termini di risparmio all'inquinamento chimico, per esempio. Come si sente lei quando deve vendere un qualcosa e ha un concorrente tedesco dall'altra parte? Ma come mi sento? Quando si va in giro, molto spesso il nostro paese è considerato in maniera molto migliore di quanto la gente non creda in Italia. Le aziende italiane sono sempre considerate tra le migliori del mondo. Purtroppo in questo periodo qua non mi sento bene, perché evidentemente ci guardano e ci dicono: ma cosa sta succedendo? È vero che grazie al governo Monti qualcosa si è recuperato, però oggi tutti ci chiedono: ma che cosa farete per crescere? Perché dovete tornare a crescere. Quanto paga di tasso di interesse se deve andare in banca e fare un indebitamento? Il primo problema oggi intanto è trovare una banca che ti faccia un finanziamento. Il secondo problema sul prezzo del denaro, è chiaro che se lo Stato in questo momento su un BTP o un CCT paga il 5-60%, è ovvio che un'impresa paga di più, quindi può arrivare a pagare anche il 7-8-9%. E dunque lei è preoccupato per aziende che magari hanno meno liquidità della sua e che si trovano a dover combattere ogni giorno contro la concorrenza tedesca, che invece riesce a strappare tassi del 2%? Certamente, in questo momento qua, se uno va in Germania, agli angoli delle strade e sulle vetrine delle banche cercano di invogliare i clienti ad entrare per fare mutui, per comprare case a tassi di interesse che loro non hanno mai visto. Da noi, se un cliente va e gli chiede di fare un mutuo, il direttore di banca gli chiede se è sicuro in questo momento qua, e in Germania invece fanno la pubblicità per attirare i clienti, e questo vale anche per le aziende. Quanto esporta della sua produzione totale? più dell'80%, però anche il 20% che teoricamente vendo in Italia lo vendo a clienti che anch'essi esportano ben più del 50% del loro fatturato, quindi meno del 10% del mio fatturato è dipendente dal mercato italiano. Ecco, e come ha fatto un'azienda che si chiama Acquafil, che poi oggi è la più importante azienda del Trentino, se non sbaglio, vero? Per numero di dipendenti nel settore manifatturiero abbiamo più di 800 persone. Ecco, come ha fatto a imporsi dal Trentino al mondo, contro i cinesi, i tedeschi, i giapponesi? Beh, sicuramente lavorando tanto, avendo dei collaboratori di primissima qualità. E poi devo dire anche una cosa, in Trentino, in Italia, i clienti stranieri sono sempre venuti volentieri, soprattutto noi in Trentino abbiamo il Lago di Garda, la mia azienda è a 3 km dal Lago di Garda, per cui i clienti, soprattutto tedeschi e nord europei, per loro venire a visitare l'azienda era occasione anche di fare vacanze. Da qui si è cominciato a creare un rapporto, diciamo, un po' più solido, un po' anche più personale con i clienti e a cercare di scalzare i miei concorrenti che all'epoca erano grandissime aziende petrolchimiche o chimiche tipo BASF, DuPont, aziende che fatturavano decine e decine di miliardi di euro di oggi. Un motto con cui ci lasciamo dunque: turismo e industria. Turismo, industria e lavoro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Jennifer Lopez è stata nominata da Forbes Magazine la celebrità più potente al mondo. Ha così scalzato Lady Gaga, che era stata incoronata l'anno scorso. La classifica si basa sulla popolarità, il numero di fan, sui social media e gli incassi delle star. Di Jennifer Lopez, Dance Again. Shimmy, shimmy, yo, shimmy, yam, shimmy, yeah. I'm an old dirty dog all day. No way, Jose. Your girl only go one way. I mean, money. You should check that out. Maybe you ain't turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.